Bufalo, dimmi un po', che c'è sta scritto sulla lavagna? A Libano, ma perché ti sfai a sei coglioni proprio a me? Non vedi che sto a giocare, fallo leggere a scrocchiazzeppi, no? Allora dillo che non si legge. Adandì, io so leggere, è che non mi va, quindi tappa di quel cesso. Oh, è incredibile, pure l'elementare ha fatto sega questa. Ma che cazzo per te? Bufalo, non te scalda, te lo dico io che c'è sta scritto. Mo, so cazzi.